Ad alta voce. Agnese Nano legge Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens. Traduzione di Marisa Sestito. Ottava puntata. Spianando la via. Si è notato piuttosto spesso che le donne hanno uno strano potere di intuire il carattere degli uomini. Una facoltà innata, istintiva, si direbbe, visto che non è il risultato di un paziente processo logico, che non ha motivazioni soddisfacenti e adeguate, che sentenzia in totale sicurezza anche contro le osservazioni che l'altro sesso ha accumulato nel tempo. Ma non altrettanto spesso si è notato che questo potere fallibile, come ogni altra qualità umana, è nella maggior parte dei casi del tutto incapace di ripensamenti e che, una volta espressa un'opinione negativa, in seguito rivelatasi falsa alla luce dell'umano intelletto, esso è indistinguibile dal pregiudizio, data la sua determinazione a non lasciarsi correggere. Anzi, la possibilità stessa di una smentita o di una contraddizione, per quanto remota, rende sin dall'inizio il giudizio femminile, 9 volte su 10, debole quanto una testimonianza di parte. A tal punto l'amabile indovina si identifica con la sua divinazione. «Ora, non credi, mammina?» disse un giorno il canonico a sua madre, che sedeva nella piccola biblioteca lavorando a maglia, di essere troppo severa con Neville. «No, Sept, non lo credo affatto», rispose la vecchia signora. «Parliamone, ma...» «Non ho niente in contrario a parlarne, Sept. Lo sai che sono sempre aperta alla discussione». Ci fu una vibrazione della cuffia, come se dentro di sé aggiungesse: «E mi piacerebbe proprio vederla, la discussione che mi fa cambiare idea». «Ottimo», disse conciliante il figlio. «Gran cosa l'essere aperti alla discussione». «Sono d'accordo, mio caro», rispose la vecchia signora, evidentemente chiusa a riccio. Non era impaziente lo sguardo benevolo di Crisparkle mentre contemplava la graziosa vecchia porcellana che sferruzzava. Ma era sicuramente divertito e consapevole che con quella vecchia porcellana non era possibile discutere in modo stringente. «E poi, Sept, chiediti cosa farebbe senza sua sorella. Lo sai quanta influenza ha su di lui, conosci la sua intelligenza e sai che tutto quello che lui studia con te poi lo studia con lei. Se le dai la parte di lode che le spetta, a lui cosa rimane?» A quelle parole Crisparkle si abbandonò a un piccolo sogno ad occhi aperti, durante il quale pensò a parecchie cose. Pensò alle volte in cui aveva visto fratello e sorella discutere assorti su uno dei suoi vecchi libri universitari, nelle mattine di Bryn, quando compiva i suoi tonificanti pellegrinaggi alla chiusa di Cloisterham, nelle sere fosche, quando affrontava il vento al tramonto dopo essersi arrampicato fino al suo punto panoramico preferito, il rudere di un monastero su una sporgenza di roccia, e le due figure passavano giù in basso lungo la sponda del fiume nel quale già si riflettevano i fuochi e le luci della città, incupendo ancora di più il paesaggio. Pensò a come gli si era insinuata la consapevolezza che insegnando ad uno insegnava a due, e a come, quasi inconsciamente, aveva adattato le sue spiegazioni a entrambe le menti, quella con cui la sua era quotidianamente in contatto e quella che lui avvicinava solo attraverso l'altra. Pensò al pettegolezzo che gli era arrivato dalla casa delle monache, secondo cui Elena, da lui mal giudicata impetuosa e superba, si sottometteva a quella fatina di sposa, era così che la chiamava, e imparava da lei tutto quello che sapeva. Pensò alla pittoresca alleanza fra le due, fisicamente tanto diverse. Pensò, soprattutto forse, poteva mai essere che queste cose, vecchie di poche settimane, fossero diventate una parte integrante della sua vita. Ogni volta che la premurosa signora Crisparkle vedeva il figlio assorto nei pensieri, lo prendeva come un segno infallibile del suo bisogno di un ricostituente. E pertanto la florida vecchia signora si affrettò verso la credenza della sala da pranzo per estrarne il ricostituente sotto forma di un bicchiere di vino e di un biscotto fatto in casa. Era una meraviglia di credenza, degna di Cloisterham e della sua canonica. Sopra di essa un ritratto di Handel in una affluente parrucca sorrideva radioso allo spettatore, consapevole di essere all'altezza dei generi contenuti all'interno e musicalmente intenzionato a combinarne tutte le armonie in un'unica deliziosa fuga. Non era una comune credenza, con un unico volgare sportello che ruotando sui cardini si apriva tutto insieme, senza lasciar nulla a schiudersi per gradi. Questa rara credenza aveva una serratura a mezza altezza, dove si incontravano due pannelli che scorrevano verticalmente, uno in caduta, l'altro in salita. Il pannello superiore, nell'essere tirato giù, duplicando il mistero di quello inferiore, rivelava profondità di ripiani pieni di barattoli di verdure in salamoia, vasetti di marmellata, recipienti di latta, scatoline di spezie, vasetti bianchi e blu, deliziose dimore di conserve di tamarindo e zenzero. Ogni benevolo abitante di questo luogo appartato aveva il suo nome scritto sullo stomaco. Le salamoie, in uniformi costituite da un mantello a doppio petto marrone che sfumava nel giallo o castano chiaro delle braghe, annunciavano la loro corpulenza in stampatello a lettere maiuscole, presentandosi come noce, cetriolo, cipolla, cappuccio, cavolfiore, misto e altri membri di quella nobile famiglia. Le conserve, meno mascoline di temperamento e adorne di bigodini di carta, annunciavano in una scrittura femminile come un dolce sussurro di essere lampone, uva spina, albicocca, prugna, susina, mela e pesca. Chiuso il sipario su queste incantatrici, nella salita del pannello inferiore si svelavano arance con una imponente zuccheriera di lacca al seguito per temperarne l'acerbità se poco mature. Alla corte di queste potenze prestavano servizio biscotti fatti in casa, accompagnati da una bella fetta di focaccia e da molte sottili dita di dama da intingere nel vin dolce e baciare. Sul ripiano più basso, una solida cripta di piombo custodiva il vino dolce e svariati cordiali, da cui provenivano sussurri di arancia di Siviglia, limone, mandorla e semi di cumino. Un'aura preziosa avvolgeva questa perfezione di credenza, come se nei secoli le campane e l'organo della cattedrale l'avessero attraversata col loro ronzio e quelle api venerabili avessero trasformato in miele sublime tutto quanto conteneva. E si osservava sempre che chi vi si tuffava. Come detto, i ripiani erano profondi e inghiottivano testa, spalle e gomiti. Ne riemergeva col volto addolcito, come si fosse compiuta in lui una trasfigurazione zuccherina. Il reverendo Septimus si sacrificava quasi con la stessa arrendevolezza riservata a questa gloriosa credenza a una nauseabonda dispensa di erbe medicinali, presieduta anch'essa dalla pastorella di porcellana. A quali stupefacenti infusi di genziana, menta, garofano, salvia, prezzemolo, timo, ruta, rosmarino e tarassaco si sottoponeva impavidamente il suo stomaco. Con quali prodigiosi impacchi, contenenti strati di foglie secche, gli veniva fasciata la faccia rosea e contenta se la madre lo sospettava di un mal di denti. Purché la vecchia signora fosse affaccendata e felice, inghiottiva quietamente ciò che gli veniva somministrato, limitandosi a due tuffi correttivi di mani e faccia nel catino coi petali essiccati di rosa e nel catino coi fiori secchi di lavanda. E poi usciva, tanto fiducioso nei poteri balsamici della chiusa di Cloisterham e di una mente integra, quanto Lady Macbeth era sfiduciata verso quelli dell'acqua di tutti i mari. In quell'occasione, con squisita buona grazia, il canonico prese il suo bicchiere di vino e, rinvigorito in quel modo per la soddisfazione di sua madre, si dedicò agli altri doveri della giornata, fino al vespro e al crepuscolo. Poiché in cattedrale faceva un gran freddo, finita la funzione, partì al trotto, deciso a dare l'assalto al suo rudere preferito e a conquistarlo d'impeto, senza fermarsi a prender fiato. Quello che soprattutto si chiedeva era se scrivere al giovane Drood o parlare con Jasper. La consapevolezza di avere un buon nome nell'ambiente della cattedrale lo fece propendere per la seconda ipotesi. «Voglio battere il ferro finché è caldo», si disse. «Ci vado subito». Jasper giaceva addormentato su un divano davanti al fuoco quando Chris Sparkle, dopo aver salito la scala esterna e bussato senza ottenere risposta, girò piano la maniglia e guardò dentro. Molto dopo ebbe motivo di ricordare come fosse balzato in piedi, in uno stato di delirio, tra il sonno e la veglia, gridando: «Che succede? Chi l'ha fatto?» «Sono solo io, Jasper. Mi dispiace avervi disturbato». Il bagliore negli occhi si affievolì nel riconoscerlo. Poi spostò una o due sedie per fargli spazio davanti al camino. «Stavo sognando a pieno ritmo e sono contento che abbiate disturbato questo sonno pesante dopo mangiato. Senza contare che siete sempre il benvenuto». «Grazie, non sono sicuro», rispose Chris Sparkle sedendosi nella poltrona che gli era offerta, «che a tutta prima la mia proposta sia altrettanto benvenuta. Ma io sono un ministro di pace e vengo a farvela nell'interesse della pace. In una parola, Jasper, desidero riportare la pace tra questi due ragazzi». Un'espressione molto sconcertata si impadronì della faccia di Jasper. Un'espressione anche molto sconcertante che Chris Sparkle non sapeva come interpretare. «Come?» fu la domanda di Jasper a voce lenta e bassa dopo un silenzio. «È per il come che mi trovo qua. Vengo a chiedervi il grande favore di intervenire con vostro nipote. Io l'ho già fatto con Neville, convincendolo a scrivervi qualche riga con la sua consueta vivacità, dicendo che è disposto ad una stretta di mano. So che è un buon ragazzo e so quanta influenza avete su di lui. E senza voler affatto difendere Neville, pure dobbiamo ammettere che è stato gravemente provocato». Jasper rivolse la faccia sconcertata al fuoco. Chris Sparkle, che continuava ad osservarla, la trovò anche più sconcertante di prima, in quanto sembrava denotare il che era praticamente impossibile, un qualche segreto calcolo interiore. «So che non siete ben disposto nei confronti di Neville», stava dicendo il canonico quando Jasper lo interruppe. «Avete ragione a dirlo, non lo sono affatto». «Indubbiamente, e quanto a me, deploro il suo carattere violento, anche se spero che riusciremo, lui ed io, ad averne ragione. Tuttavia, ho preteso una promessa solenne riguardo al suo comportamento futuro con vostro nipote, se voi avrete la cortesia di intervenire, e sono sicuro che la manterrà». «Come sempre, Chris Sparkle, avete un forte senso di responsabilità e siete degno di fiducia, ma sentite davvero di poter garantire per lui?» «Sì», l'espressione sconcertata e sconcertante svanì. «Allora mi sollevate da una grande paura e da un grosso peso», disse Jasper. «Lo farò». Chris Sparkle, deliziato dalla rapidità e completezza del successo, espresse tutta la sua gratitudine. «Lo farò», ripeté Jasper, «per il conforto di avere questa vostra garanzia contro i miei timori vaghi e indistinti». «Riderete. Voi tenete un diario?» «Una riga al giorno, non di più». Una riga al giorno sarebbe più che bastante per questa mia vita piatta, disse Jasper prendendo un libro dalla scrivania. Se non fosse che il mio diario è in effetti anche il diario della vita di Ned. Riderete di questa annotazione e indovinerete quando fu fatta. Mezzanotte passata. Dopo quello che ho appena visto, sento un terrore morboso che qualcosa di tremendo debba capitare al mio ragazzo. E non riesco a combatterlo con la ragione o in altro modo. Tutti i miei sforzi sono vani. La furia demoniaca di questo Neville Landless, la sua forza feroce, la sua rabbia selvaggia e distruttiva mi terrorizzano. Così profonda è l'impressione che sono già andato due volte nella stanza del mio caro ragazzo per assicurarmi che stia dormendo in pace e che non giaccia morto nel suo stesso sangue. Ecco un'altra annotazione del mattino seguente. Ned alzato e partito, scherzoso come sempre. Ha riso quando l'ho messo in guardia dicendo che come uomo valeva quanto Landless e ogni giorno era buono per dimostrarlo. Gli ho detto che poteva anche essere, ma che non era altrettanto malvagio. Ha continuato a scherzarci sopra, ma io l'ho accompagnato fin dove ho potuto e l'ho lasciato molto a malincuore. Non riesco a scacciare questi cupi, intangibili presentimenti di male, se si possono chiamare così, dei sentimenti basati sulla realtà dei fatti. Più e più volte, disse Jasper infine facendo girare le pagine del volume prima di metterlo via, ho provato questi timori e lo dimostrano altre parti del diario. Ma ora mi sento rincuorato dalle vostre parole e annoterò anche questo, servendomene come un antidoto al mio umor nero. Un antidoto, spero, rispose Crisparkle, che vi induca il prima possibile a consegnare l'umor nero alle fiamme. Sono l'ultimo che dovrebbe rimproverarvi qualcosa stasera, Jasper, vista la prontezza con cui avete esaudito il mio desiderio, ma devo dire che in questo caso l'attaccamento a vostro nipote vi ha portato ad esagerare. Mi siete testimone, disse Jasper, stringendosi nelle spalle, di quale fosse onestamente il mio stato d'animo quella notte prima di mettermi a scrivere e di quali parole mi sia servito per esprimerlo. Su, provate l'antidoto, replicò Crisparkle. Spero che vi serva a vedere le cose sotto una luce migliore. Vedrete, disse Jasper mentre si davano la mano, che non farò a metà la cosa che mi chiedete. Cercherò di convincere Ned, se sarà disposto a cedere, a farlo fino in fondo. Tre giorni dopo questa conversazione si recò da Crisparkle con la seguente lettera. Mio caro Jack, sono colpito da quanto mi scrivi sulla conversazione avuta con il signor Crisparkle, che io rispetto e stimo molto. Senza esitare, riconosco apertamente di aver perso il controllo in quell'occasione, ma il passato è passato e mi auguro che tutto torni a posto. Sta a sentire, vecchio mio, invita a cena Landless la vigilia di Natale, il migliore dei giorni per la migliore delle azioni, solo noi tre, per stringerci la mano e non parlarne più. Mio caro Jack, il tuo per sempre affezionato Edwin Drood. Post scriptum. Il mio amore alla signorina Pussy alla prossima lezione di musica. Allora inviterete Neville? Chiese Crisparkle. Conto sulla sua presenza, disse Jasper. Agnese Nano ha letto Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens, a cura di Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.